Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantaneda in redazione, Nicolò Rinaldi in regia e finalmente siamo riusciti ad avere qui una penna storica del nostro sport, non solo del basket, Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera. Ciao Flavio, grazie. Salve a tutti, oltre grazie che a voi. Autore di un memorabile libro a quattro mani con Dino Meneghin, di cui poi parleremo. Coach Dan Peterson, ciao coach. Ciao Carlo, ciao Flavio, sì, grande libro di Flavio con Meneghin, fatto con grande spirito, abbiamo visto noi la presentazione, quindi un abbraccio Flavio. Okay? Ciao, dammi gli estremi del bonifico che poi ti mando quattro soldi. Dunque coach, io partirei con te dalla notte statunitense, visto che è la notizia più fresca, con Miami che bastona New York. Finisce anche male al Madison Square Garden, 87-70, 3-0 per gli Heat, soprattutto tredicesima sconfitta consecutiva nei playoff per i New York Knicks. E poi ci sono i campioni che probabilmente salutano, perché Oklahoma 3, Dallas 0 è una sentenza. Ma cioè, perché nella storia dell'NBA, come sappiamo tutti, nessuna squadra, nessuna serie di playoff, che vuol dire primo turno, quarto finale, semifinale, finale, nessuno ha mai rimontato da 0 a 3 a vincere la serie, quindi sono già assegnati. A New York ovviamente sbagliare più di New York non è umanamente possibile. Hanno preso Carmelo Anthony l'anno scorso, lui vuole che la squadra sia sua, di Carmelo, e ce l'ha, però la squadra non può vincere con uno così. Amari Stoudemire, che dimostra poca intelligenza, dà un pugno a un estintore di fuoco, spacca un vetro, taglia il polso, non può giocare, quindi Shumpert si fa male, lì è fuori, però veramente una gestione di come costruire una squadra e selezionare le persone che veramente è molto rivedibile. Poi ieri sera avevano le loro possibilità a New York, erano 37-27, ho visto la partita qui in televisione, 37-27, poi 40-36 l'intervallo, poi quarto LeBron James ha fatto 17 punti, New York 14, e sono andati via più 17 alla fine. Cioè, sì, sì. Miami ottima difesa, Miami una delle migliori squadre dell'NBA a impedire gli altri a tirare da tre, cioè loro escono velocemente sui tiratori con la mano già alzata, che era il segreto, non puoi uscire e avere la mano in basso, loro escono e Dwayne Wade è super a questo, super fuori, e Novak, un tiratore micidiale, dice ai, sei uno davanti a me con la mano alzata, non tiro, passo o palleggio, è un disastro, grandi loro. Poi tu hai detto Oklahoma City, che io pensavo che avrebbe vinto Dallas ieri sera, giocando in casa, campioni, Dirk Nowitzki, invece sin dall'inizio della partita Oklahoma City ha detto voi non vi alzate neanche da terra, Durant ha piazzato un paio di tre, dominio totale, c'è stata una differenza notevole nelle due partite di reattività fisica atletica, Miami più atletica fisica che New York, e Oklahoma City notevole differenza di reattività nei confronti di Dallas. Quindi Dallas, i risultati alla fine non sono sorpresi. Che al tramonto, Flavio, comunque New York rimanda sempre l'immagine di un grande casino, Eh sì, purtroppo comunque la si rigira così, e devo dire che sicuramente non è stato produttivo fare la guerra a Mike, anche se poi Mike aveva fatto magari degli errori, forse un po' troppo fossilizzato nella sua idea di giocare in un certo modo, un certo assetto di squadra con un certo tipo di giocatore. Però obiettivamente quando ti comprano a Carmelo, e si sa che questa è una tassa, ma a prescindere dal valore indiscusso del giocatore, beh, è evidente che lì hanno perso la Trebisonda, e non c'era proprio, secondo me, come dire, unità di intenti nei confronti del coach. Forse per loro sarebbe stato più sensato chiudere l'esperienza da Tony prima di cominciare questa stagione. Sì, non c'è dubbio. Senti coach, tu prima parlavi dei pugni di Stoudemire, della stupidità di Stoudemire, si vede che è periodo. C'è un ascoltatore che ti chiede cosa ne pensi di Delio Rossi. Avrai letto e sentito. Un tuo insegnamento è sempre stato: fai il cambio e vai in fondo alla panchina. Vero o no? Innanzitutto è stato visto qui negli Stati Uniti in televisione, il servizio, quindi è fatto il giro del mondo. con qualche commento ovviamente. È chiaro, cioè, quando succede una cosa così ci sono due sbagli: la parte del giocatore che contesta il cambio, Rossi che ha la reazione perché c'è un momento di fare queste cose e un momento di non fare. Io ero sempre idea, quando il giocatore veniva cambiato io mi allontanavo dalla panchina per non avere questo tipo di confronto, tanto per dire, perché nel basket poi è diverso, il giocatore può rientrare. Io dicevo, se ti tolgo vai al fondo della panchina, bevi qualcosa, asciugati, parla con il massaggiatore, puoi anche dire Peter sono un cretino, ok, non importa, però quando noi parleremo con lui, io ti chiamo per rientrare alla partita perché lui sarà più tranquillo, più motivato perché sta per entrare, eccetera, così, quindi ma mai andare a cercare un confronto, ovviamente Rossi da parte sua che fisicamente salta addosso il giocatore, cioè, a parte il fatto che era comico, è veramente una cosa da non fare. C'è modo e modo di fare queste cose qui e tutte le due hanno sbagliato. Questo non c'è dubbio. Prima di salutare Coach Peterson che è negli Stati Uniti e andare avanti a chiacchierare con Flavio Vanetti e con voi, 800-24-0024 numero verde, non ci facciamo mancare questo imperdibile tweet del coach. Settimana scorsa ero in vacanza e ho chiamato a Sport Italia per un saluto. Ragazzi, come andate senza di me? La risposta: chi è che parla? Flavio, ma ti pare possibile non riconoscere Coach Peterson al telefono? Succede. Anche questo. Ciao coach, ci sentiamo settimana prossima. Ciao ragazzi, ciao. Un abbraccio ancora. Ciao ragazzi. Salutiamo Coach Peterson che troveremo naturalmente venerdì. Flavio, adesso c'è da disegnare la griglia dei playoff, poi 15 giorni, per 15 giorni tutti al mare. Sì, anche questa è un'altra bella trovata, curiosa, si fa per dire, curiosa. Sì, è vero che c'era di mezzo in teoria le Final Four dell'Eurolega, però io resto dell'idea che lo sport italiano, ma non solo il basket, anche il basket, non sappia ragionare sui calendari, sulle scadenze, non sappia soprattutto come dire, confrontarsi anche con altre discipline, in realtà ci sono degli accavallamenti, per cui non so, la finale della Coppa Italia di basket coincide con la finale della Coppa Italia di pallavolo, ecco, oddio, non che ci sono due pubblici diversi, però magari sono anche due sport cosiddetti alternativi al calcio, se riescono a mettersi d'accordo a non portarsi via spazio, che poi è spazio sui media, perché certo, è chiaro che non tutti possono magari coprire l'evento nello stesso modo, per cui sarebbe stato molto più opportuno organizzarsi in maniera tale che un giorno fa la finale uno, l'altra volta fa l'altro, doppia copertura sicuramente migliore. C'è poca flessibilità, insomma, siamo qui ancora a lamentarci del fatto che non abbiamo visto Cantù Siena perché c'era l'hockey, eccetera, c'è scarsa flessibilità nel cambiare l'area, vedi anche nel calcio, hanno deciso, ok, la Juventus gioca in contemporanea con il Milan domenica sera, hanno più flessibilità, una materia che il basket fa fatica a maneggiare. Sì, ma mi vengono in mente un po' le parole anche di Julio Velasco ai tempi quando lui suggeriva, invitava lo sport italiano a rivedere proprio i calendari, tutte le varie discipline, non sedersi a un tavolo e confrontarsi. Poi ci sono anche delle oggettive scelte, a mio giudizio sbagliate, ad esempio il basket si è rimesso a giocare alle 20:45, beh, forse bisognerebbe spiegare ai signori della Lega che i giornali, qua parlo, forse tiro un po' di acqua al mio mulino, ma in senso generale forse vale un po' per tutti, i giornali stanno cercando di arretrare i tempi di chiusura, per cui se tu mi aumenti lo spazio in cui puoi giocare e soprattutto il rischio supplementare di arrivare a ore tipo le 23, ecco, avranno sempre meno spazio in certi giornali, come già i politici chiaramente sono quelli più penalizzati, lo sportivo probabilmente riesce in qualche modo a tenere aperto, forse non tutti, non riescono a capirla, è da anni che si sta spiegando che bisogna fare uno sforzo, adesso io non dico magari alle 8 che sarebbe forse l'orario ideale, ma 8:15, le 8:30 sono già troppo. Sì, no, ma perché è questione di minuti, al grande pubblico questi dettagli possono sfuggire, ma sono importanti e costano al basket visibilità. Palla spicchi. Allora, Flavio Vanetti, si decide la griglia dei playoff, già da tempo sappiamo chi ci andrà e chi no. La partita chiave è Bologna, che è la squadra del momento, ha battuto due volte Siena e questo non era mai successo a nessuno nell'era della Siena pigliatutto, sia all'andata che al ritorno. È una squadra praticamente imbattibile in casa, quella che ha il miglior record 14-1 di tutta la Serie A, molto più friabile in trasferta di solito. C'è Cantù, che è attraverso un momento di difficoltà, e poi c'è Sabatini, che lo leggiamo oggi da qualche parte sui giornali, dice c'è il premio per chi fa giocare il maggior numero di minuti agli italiani, c'è uno scarto stretto tra Teramo e Bologna, e Sabatini si inventa: potrei far giocare tutti gli italiani in una partita che è chiave per Cantù, più che per, oltre che per la stessa Virtus. Magari potrebbe anche far giocare Kobe Bryant, visto che lo aveva trattato, dice così lui all'inizio. Comunque, al di là di facili battute, beh, credo che non succederà, perché insomma c'è di mezzo una situazione troppo delicata, troppo importante, non puoi far giocare solo gli italiani, comunque ma è anche una squadra chiaramente indebolita, in una partita che vale il secondo posto, perché Cantù lotta per il secondo posto e Milano a sua volta lotta per il secondo posto. La vediamo, almeno la vedo come una delle tante uscite di Sabatini, che in un basket privo di idee e di fantasia di tanto in tanto cava il coniglio dal cilindro e fa queste uscite. Poi sono pronto a scommettere che domenica la Virtus sarà in campo con la miglior formazione. Vabbè, anche perché sennò succede un putiferio immaginare. Milano nell'ultimo mese e mezzo si è visto il valore aggiunto probabilmente di Scariolo in una squadra comunque buona, una squadra che ha trovato il passo. È cominciata proprio da questi microfoni la polemica con Siena, perché era seduto al tuo posto, Scariolo, quando parlò di aria rancida sul nostro campionato. Sono curioso di vedere cosa succede nei playoff e di sentire cosa succede nei playoff. Ma io spero che comunque siano playoff all'insegna del fair play e delle polemiche, ma di polemiche non di basso profilo. Cioè, il basket non ha bisogno di situazioni da cortile, ha bisogno magari di provocazioni, dibattiti, come c'era ai tempi, abbiamo sentito prima, di un Peterson che duettava con Bianchini ed era un titolo al giorno. Ecco, c'è bisogno di questo. Io non vorrei troppo entrare nel merito di certe cose sono uscite e sono state dette. Io sono sempre dell'idea che prima di fare certe campagne uno debba vincere. Adesso Milano obiettivamente si è messa a vincere, faccia parlare soprattutto i risultati e soprattutto non guardi troppo alle streghe, a delle cose che magari ci sono o non ci sono, ma secondo me è una professione di debolezza rintanarsi in una situazione di questo tipo. Primo ascoltatore di oggi, Daniele da Milano, 800 24 00 24, numero verde per voi. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno, due domande velocissime. Prego. Una su Milano, volevo chiedervi sia il vostro parere che secondo voi della società di Milano, qual è l'obiettivo minimo per cui si potrebbe giudicare questa stagione buona? Ecco, scudetto, finale, semifinale, accesso all'Eurolega, eccetera eccetera. E la seconda è una curiosità mia personale che mi è venuta in mente, visto che quest'anno ci sono le Olimpiadi. Volevo capire come mai in alcuni sport tipo il basket e il calcio c'è la Gran Bretagna che rappresenta il regno, diciamo, mentre invece in altri sport o in altri tornei tipo il rugby o il calcio ai mondiali ci sono le quattro nazioni: Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda. Volevo sapere qual era il motivo perché c'è questa distinzione tra queste competizioni. Abbiamo un super inviato olimpico. Ma questa questione era stata anche in effetti sollevata, si diceva che sarebbe stata l'Inghilterra ad avere il diritto, però l'Inghilterra non era in grado di mettere in campo una squadra sua, o comunque insomma alla fine è stato il CIO a stabilire che il titolo competeva alla Gran Bretagna. Questo è una decisione arrivata appunto dal comitato olimpico. Rispondo quanto, anche alla quanta la domanda su Milano, la domanda sta su Milano è effettivamente il confine è molto molto, come dire, molto risicato, nel senso che Milano alla finale le ha già giocate, secondo me allora, posto che quest'anno non è riuscita ad arrivare molto più avanti nell'Eurolega, c'è stato forse qualche esperienza migliore nel passato, posto che comunque non ha vinto nella Supercoppa, nella Coppa Italia, diciamo che i risultati per ora sono abbastanza in linea con quanto ha espresso e spremuto la squadra in questi anni. Ecco, forse un segnale importante potrebbe essere, a parte ovviamente la vittoria dello scudetto, questo è automatico, potrebbe essere una partecipazione alla finale, questo è ovviamente è inevitabile, con una competitività e una capacità di impensierire l'altro avversario, che probabilmente sarà Siena, perché sì, facile che poi alla fine Milano e Cantù si trovino in semifinale, ecco. Quindi una partecipazione un po' più agonistica. Un po' più agonistica, ecco, un segnale di una freccia che è sicuramente verso l'alto, perché comunque la squadra adesso, ripeto, ha dimostrato in queste sette partite, si avvicina in teoria anche al record, no, di 8 vittorie, nessuno avrebbe fatto 8 vittorie di fila. È chiaro che un segnale c'è, ma adesso va consolidato e soprattutto pensando al domani ci vuole appunto un messaggio forte come quello che ho detto. Sì, c'è un altro macro tema che vorrei affrontare con te, che parte da un SMS: qual è il futuro della Lottomatica Roma, eccetera eccetera. Sta parlando ora Claudio Toti in questo momento e dice: sono qui a ribadire la decisione di lasciare il basket professionistico. Non mi sento di sposare un programma con budget ridotto, problemi di Roma, mancanza di impianto. Nel 2007 è vinto il bando di gara, ancora non abbiamo un nuovo palazzetto, ingestibile questa situazione, non si crea senso d'appartenenza, oggi non c'è un compratore, non la regalo alla società, la vendo perché l'ho pagata. Chi vuole rilevare la Virtus prende un impegno serio di fronte a me, città e tifosi. Errori fatti tanti, errori fatti quest'anno ancora di più. Queste le parole di Claudio Toti, che ripeto sta parlando adesso. Una tua visione, oltre che su Roma, più in generale sulla situazione del basket italiano, perché io leggo la classifica e vedo che Teramo problemi conclamati, c'è Lino Pellecchia che dice servono 800.000 euro per pagare i giocatori questa stagione, e abbiamo la lettera aperta dei giocatori di Teramo, che è storia della settimana scorsa. Leggo la classifica, da Avellino fino a Caserta sono tutte società grosso modo con dei problemi. E giriamo la domanda a Vialdo Moro 50 Bologna, Lega Basket, perché qua loro dicono che tutto il basket a posto è sano. Secondo me il basket italiano non è assolutamente sano, ci sono dei gravi problemi, forse mascherati magari meglio rispetto al passato, però la realtà è quella di un movimento statico che non ha idee, che non esprime più quella creatività che esprimeva negli anni scorsi, negli anni d'oro perlomeno, certo accompagnata anche queste idee da un momento economico e se vogliamo istituzionale differente. C'erano anche delle elargizioni, contributi, c'era un contratto RAI che sappiamo tutti come era nato e su quali basi era impostato. Ecco, però io credo che nei momenti di crisi a maggior ragione sia necessaria la creatività, la fantasia, trovare dei buoni spunti, delle buone idee. Non ne vedo in questo momento nella Lega Basket, e la Lega Basket è purtroppo in questo momento la figlia di anni di errori, di litigi, di visioni del proprio orticello senza andare a una visione più generale, più panoramica. Stiamo scontando l'onda lunga di troppi anni di inerzia, e forse in questo scenario ci sono annidate anche delle situazioni comodo e anche degli appoggi, delle sponsorizzazioni a persone che faceva comodo tenere in un certo punto. Io credo che sia ora, per il bene del basket, di dare una svolta, e questo lo devono dare le società. So che mercoledì c'è un incontro piuttosto importante nel quale forse mi auguro verrà tratteggiata una lega differente. In questo sono d'accordo con Prodi, magari non ho condiviso tutto quello che lui ha detto appunto in quella polemica che c'è stata nei giorni scorsi, con la risposta poi anche di Meneghin, però sicuramente ha detto una cosa giusta: il basket oggi come oggi è fermo, e questo è un dato di fatto. È il momento anche del rigore, forse. Sì, il rigore, però io resto dell'idea che il rigore è necessario, sicuramente non ci sono molti soldi, però ragionando in maniera diversa si può anche forse cavare qualcosa da questa situazione difficile. Comunque non è vero che il basket italiano è sano, perché poi vengono certo. fuori puntualmente queste situazioni. Roma purtroppo è ahimè, bisognerebbe dire forse anche una cosa magari spiacevole, non so se non vorrei dire delle cose anche magari che poi creano dei problemi, però è evidente che c'era anche una liaison prima di ordine politico che legava anche la figura di Totti e la presenza di Totti nel basket, certo. e adesso non c'è più, quindi è chiaro che la situazione è pesante. Poi loro hanno quello che potevano sbagliare, l'hanno sbagliato negli anni scorsi, non adesso, negli anni scorsi. Certo, a proposito di questa liaison, cioè, sono le dichiarazioni di Alemanno, sindaco di Roma: incontrerò i responsabili della Virtus, faremo il punto della situazione, dobbiamo trovare una soluzione sostenibile dal punto di vista economico. Questo è un momento in cui gli sponsor si tirano indietro, un momento di crisi economica, vabbè, qui Alemanno non scopre nulla, però la liaison evidentemente esiste ancora. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre con me Flavio Vanetti, inviato storico del Corriere della Sera. Davide da Pesaro invece è in linea. Buongiorno Davide. Buongiorno, buongiorno dottor Genta. No, volevo solo fare una piccola precisazione, un appunto su ciò che ho sentito da voi più volte in merito allo svolgimento del campionato. Sì. Il campionato di basket è avvincente proprio perché sono stati introdotti anche proprio il basket stesso, che è nato così, per rendere l'incerto incerto. E quindi il bello dei playoff è quello. Però ho sentito dire alcune volte da voi, ma non sarebbe giusto, perché fare una serie finale o semifinale troppo breve non farebbe vincere il migliore. Ma se vogliamo far vincere il migliore, tanto vale fare il vecchio campionato a punti. Io guardi, ho sempre detto il contrario. Il sale del basket sono i playoff, e questo lo sappiamo tutti ormai da anni. Io trovo ormai ingestibile una serie finale al meglio delle 7 partite. Perché visti gli attuali momenti di congiuntura economica, ma al di là della congiuntura economica è un discorso sportivo, no, sottoscrivo Flavio. In pieno, non ha senso continuare con questa formula qua, ma è un problema anche proprio per chi deve poi informare, perché non è molto meglio la vecchia soluzione a 3, al limite magari con una finale a 5, ecco, forse certo. la finale, però effettivamente prima è giusto rimettere quel sale che prima mancava, ecco, come la vedo io. Sicuro. Poi certo, magari è un'ingiustizia nel confronto del più forte, però insomma, più forte deve sapere vincere. Guarda la pallavolo, comunque esatto. si è inventata il volley day, lo cambia, il forum, lo cambia, perché quello è veramente crudele troppo, ed estremo, troppo, esatto, è quasi perverso. Esatto. Però con questa formula in qualche stagione ha fatto comunque certo. un bel botto, no? Infatti. Volevo chiederti, adesso facciamo anche un salto a Reggio Emilia per festeggiare uno dei risultati definitivi di questa stagione. Senti, ma ti sei divertito a scrivere il libro con Dino o no? Assolutamente sì, perché il personaggio è, al di là del bene e del male, io un po' sapevo, ovviamente, avendo vissuto. Beh, lo conosci da qualche annetto. Sì, diciamo dal 78, quindi sono un po' di anni che lo conosco. Poi conosco anche soprattutto la ciurma che gli stava a fianco, quindi diciamo che ero preparato. Però è stata una sorpresa, perché per due motivi. Primo, perché Dino è veramente bravissimo nell'esporre le cose, ha questa capacità di raccontare aneddoti, secondo me lui è un cabarettista mancato, sì. e sono state queste registrazioni che abbiamo fatto dei vari capitoli, sono state veramente delle occasioni di risate, divertimento. Io rido ancora come un cretino da solo quando ripenso all'episodio del Bacucco, e lui racconta di questa vicenda avvenuta quando era ancora ragazzotto, giocava nella nazionale, forse se non giovanile quasi, comunque una prima squadra molto sperimentale. Erano andati a giocare in questo torneo in Bulgaria e c'era anche la Turchia come avversario, e si erano accorti che avevano portato questo spilungone che sembrava una specie di scarpantibus brutto, cattivo, con la faccia torva, e l'avevano soprannominato il Bacucco. Al ristorante, fino al giorno prima, hanno cominciato a provocarlo. Era stato Rusconi, ovviamente, Dodo Rusconi, a cominciare a provocarlo, a lanciargli le molliche di pane, e questo qua si incazzava tutte le volte che gli arrivava la mollica di pane, finché arriva la partita e durante un'azione Dino rifila una gomitata terribile in faccia al Bacucco, il quale fa questo rumore, questo sordo grugnito che testimonia la sua arrabbiatura. Nel momento in cui Dino prende appunto e torna in difesa, ha sentito il cigolio del parquet ed era il Bacucco che stava tornando per inseguirlo e per fare giustizia sommaria del fallo subito. Ha detto che ha tirato una fucilata con le mani, con questa, ha dato una sbracciata, dice: se mi becca mi stacca la testa, io finisco in tribuna. E ho rischiato, l'unica volta che ho rischiato la vita sul parquet non è stato contro Kachenko, contro Sabon, ho rischiato contro il Bacucco e per colpa di quel pirla di Rusconi che ha tirato le molliche di pane al ristorante. Sì, perché poi se la prende col Dino, esatto, e non esatto. Col lui, furbissimo, ecco, Dodo faceva anche un po' la parte di quello che scontava un po' le malefatte, perché c'è Aldo Ossola che era quello che dava gli input per gli scherzi e poi nascondeva la mano, sì. Zanatta era l'esecutore di giustizia, faceva di ogni, e Dodo Ruscone aveva anche questa, secondo me, questo cinismo nel fare gli scherzi. Comunque, tornando al libro, è stata veramente una bella esperienza questa sua capacità di raccontare. E poi la cosa incredibile è che ci siamo persi un sacco di altri aneddoti che sono saltati fuori a libro chiuso. Infatti si potrebbe fare anche una seconda versione, sì. Poi magari ci mettete il DVD. Esatto, magari, esatto. Luigi Forlì, buongiorno. Salve, buongiorno. Io volevo dire, sono rientrato, ero negli Stati Uniti, sono andato a vedere la prima partita di playoff Miami-New York. Non ero mai andato a vedere una partita del ed è uno spettacolo pazzesco, incredibile, da quando si entra dentro lo stadio a quando si esce. È mai possibile che in Italia non si riesca, non dico a fare una cosa uguale perché è impossibile, ma a rendere più avvincente anche attraverso lo spettacolo, perché sennò diventa, perché la partita dell'NBA è spettacolo dentro lo spettacolo, da noi ormai è diventato tristezza dentro la tristezza. Macro tema, Flavio. Ma allora io apporterei qualche piccola modifica a quello che ho detto, nel senso che è vero che la partita NBA è un evento, è uno spettacolo. Secondo me i tempi americani sono troppo lunghi, perlomeno per una visione europea e anche nostra culturale, si sta troppo a palazzo, però loro in realtà lo vedono anche come un appuntamento mondano, come un modo per socializzare, vanno alla partita anche per sgranocchiare noccioline, mangiarsi un pezzo di pizza, andare allo store. Sicuramente è un esempio di come si costruisce attorno a un evento un qualcosa anche di commerciale, di importante, con dei ritorni. I tempi secondo me sono troppo lunghi e soprattutto la partita NBA è troppo spezzettata. Però è vero il discorso che fa il nostro ascoltatore, il basket dovrebbe imparare a fare qualcosa di più e anche costruire qualcosa a fianco della partita, e ci vorrebbero però anche degli impianti diversi. Quello che ha fatto la Spagna, che noi non abbiamo ancora fatto, siamo ancora legati a un'impiantistica da anni 70, 80, forse qualcosa fatto con i mondiali 90, di calcio del 90, anche se poi qualche impianto non è nemmeno stato completato, tipo il famoso Palababele di Cantù che è stato poi demolito. Ecco, noi siamo capaci di fare queste cose. Dalle altre parti hanno creato degli impianti incredibili in Germania, in Turchia, esatto, dappertutto, tranne che da noi. No, questo è il primo vero problema, anche per tornare al discorso di cosa deve fare il basket oggi per crescere. Deve fare un serio discorso sull'impiantista. Poi tu girando il mondo, insomma, trovi il modo di verificarle e magari qualche volta di arrossire. Flavio e Flavio Vanetti è tranquillo. Ciao Flavio, tranquillo. Buongiorno ciao. A lei. Abbiamo abbozzato il discorso playoff NBA, adesso lo approfondiamo con te, caro Flavio, ce li stai raccontando su Sky. I risultati della notte, vabbè, dicono che i campioni hanno abdicato e che New York alla fine non poteva essere un ostacolo serio per Miami. Sì, i campioni hanno abdicato proprio senza mezzi termini, hanno giocato una partita strana rispetto alle prime due, che hanno perso pur avendo avuto in ambedue i casi, soprattutto nella seconda, grandi possibilità di vincerla. Questa proprio l'hanno giocata poco e dopo un po' neanche quel poco, però era evidentemente una stagione così. New York è un discorso complesso, però credo che l'unica cosa di fondo che rimane è che il pesci puzza sempre dalla testa, sì. La testa è abbastanza maleodorante, non sto parlando di un singolo individuo, ma sto parlando in generale di tutto quello che cade dall'alto. Oggi non sai davvero dove girarti, c'è Denver che ci prova contro Los Angeles e vista l'ultima partita sarà qualcosa di interessante, c'è Chicago che si gioca moltissimo con Philadelphia e c'è Atlanta-Boston che è una serie che io non riesco sinceramente a leggere. Io credo che ci sia in assoluto molto equilibrio, perché questa è una fase storicamente nell'NBA in cui c'è un grande livellamento, in più il tipo di stagione regolare rende questo equilibrio ancora più pronunciato e rende l'imprevedibilità ancora più pronunciata. Per capire che cosa succede andando avanti abbiamo bisogno di tempo, perché una cosa erano i playoff prima dell'infortunio di Rose, o prima dell'infortunio di Shumpert, o prima dell'infortunio di Butler, o prima della manata di Stoudemire, o prima della squalifica di Rondo, che poi non necessariamente tutti gli eventi, come ci spiega per esempio la squalifica di Rondo, conducono alla conseguenza che ti attendi sì. Che non c'è Rondo e non c'è Allen, quindi i Celtics perdono e invece vincono, perché tirano fuori esattamente in quella situazione il motivo per cui comunque sono ancora i Celtics, quindi sarà così ancora per un po', poi quando forse arriveremo alla finale di conference a quel punto sarà tutto già un po' più delineato. Sì. Flavio Vanetti invece vale la pena di star sveglia a vedere Danilo che ci prova, ma più in generale Denver che ci prova contro Los Angeles. Sì, anche perché secondo me Denver gioca molto bene, è una serie piacevole, poi insomma sapere che ci sono due italiani, uno in campo e l'altro in panchina, insomma ci rincuora un po' in questo momento, un po' così della nostra pallacanestro. Anche se vedere Ettore là in seconda fila con davanti due armadioni. Sì, è una seconda fila falsa, perché secondo me lui è già abbondantemente in prima fila. Sì, sì, e sì. Secondo me, non lo vorrei dire, ma io credo che prima o poi in prima fila ci starà a tutti gli effetti a pieno diritto. In piedi davanti alla panchina. Sì, in piedi davanti alla panchina. Non so se quella appunto dei Lakers, se quella lì o un'altra, però credo che possa accadere. Palla spicchi. Allora Flavio, tranquillo, su questi due argomenti, Ettore Messina prima o poi in prima fila e magari in piedi, come possono fare i capi allenatori NBA, e questa serie con Denver, perché secondo me abbiamo visto ancora poco finora. Partiamo dalla seconda, la serie non c'è stata in gara 1, nel senso che Denver non si è iscritta, con la notabile eccezione di Danilo inteso come Gallinari. C'è stata in gara 2 perché sì. Denver si è iscritta, non è stata sostenuta dallo stesso Gallinari di gara 1, ma se giocano con lo stesso tipo di atteggiamento possono decisamente provarci. Detto questo, i salti di qualità che hanno fatto i Lakers nelle ultime 2 settimane, 10 giorni, veramente in un tempo brevissimo, è spaventoso. Parlando qualche settimana fa con Ettore Messina, lui mi diceva comunque una delle tante cose che ho visto è come queste squadre siano in grado di migliorare anche avendo pochissimo tempo per allenarsi o comunque di cambiare. I Lakers sono cambiati per il meglio, senza fare del falso trionfalismo e senza nascondere che naturalmente noi guardiamo con una certa attenzione a quello che fanno i nostri tra virgolette nell'NBA, penso che sia onestamente oggettivo e obiettivo che c'è una parte importante di Ettore Messina nel come sono cambiati i Lakers, e posso dire per condizione diretta che questo è stato notato anche in giro. Dove porterà non lo può sapere nessuno, perché è troppo presto, però ecco, diciamo che ancora una volta il prodotto italiano non ha tradito. Poi sì. I maghi non esistono, e credo che il primo a dirvelo in maniera circostanziata sarebbe proprio Ettore, però l'hanno notato tutti che c'è un certo tipo di lavoro, si può vedere anche abbastanza facilmente prendendo in mano una partita dei Lakers di gennaio e una partita dei Lakers di adesso. Ah, non c'è dubbio. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. Abbraccio. Grazie. Salute. Grazie Flavio, tranquillo, ci sentiamo domenica sera 20:30, ultima puntata domenicale di Palaspicchi con la griglia dei playoff. Senti, ti porto Flavio Vanetti, ti porto al ristorante. Va bene. Te l'aspettavi. Anzi, ci porta Gian Maria Vacirca. Basket Chef. La rubrica si mette a dieta. un blog di cucina e la sua versione radiofonica in 5 mesi valgono 8 kg, ovviamente senza l'attività fisica propria dei nostri amici cestisti. La prova costume è una non prova, meglio puntare direttamente alla taglia in più, sempre che una sola taglia sia sufficiente. Andiamo a rotoli, di pancia si intende, ma siamo debitori di un'ultima cena. La grande buffata, come quella che facevo con Sacchetti, ma anche con Frates, Pilastrini e pure Drucker, che è un israeliano atipico. Di mio c'è pure un video che racconta la sua preparazione del risotto alla birra, con tanto di grembiulone XXXL, lo trovate sul web. Fabrizio amava i dolcini, li ama tuttora, spesso condivisi con Stella, la sua piccola. Pilastrini, i gelati, golosissimo. Drucker si dedicava alla pasta in qualsiasi forma, con preferenza per il ragù. Ma ce ne siamo dimenticati uno, Max Menetti, fresco di promozione con Reggio Emilia, trionfatore nella sua città, che non manca mai di regalarci una cassa di Lambrusco e che ama pazzamente i cappelletti in brodo, come da tradizione. Ultimo di campionato di Serie A e spazio a chi starà fuori dai playoff, una squadra, un piatto per l'ultimissima verticale del cibo. Avellino e i suoi paccheri amalgamati, come solo Martella sa fare. Biella e le sue birre. Treviso è un futuro consorzio che mette in prima fila anche i produttori di Prosecco. Bravi. Cremona e i bolliti con la mostarda, così amati dal tandem Caia Portaluppi. Roma che ci fa impazzire con tutta la sua cucina, ma che si è regalata solo una stagione di pane azzimo. Teramo e i numeri di Polonara, incredibili di speranza per il nostro basket. Questo sì che potrebbe essere un piatto eclatante per il futuro. Montegranaro, il mare e i monti, il brodetto e la costata marchigiana cucinata sul fuoco. Caserta, mozzarella volontà, neanche a dirlo. E Casale, un bel rosso del Monferrato e calici da alzare, augurando un veloce ritorno in Serie A. Basket Chef. E questa era l'ultima puntata di Basket Chef a settembre, riprendiamo per i tuoi gusti? Beh, io sono astemio praticante, per cui diciamo eliminiamo tutte le aree del vino. Però risotto alla birra di Sacchetti. Eh sì, quello si può anche meno, effettivamente sì, l'ho appena visto in Sardegna, per cui no, ma poi ha confessato appunto una certa propensione. Si occuperà anche della parte culinaria della nuova foresteria che Sassari sta realizzando. Sassari, grande cosa. Grande bella cosa, realtà. Adesso spero poi in questi giorni poterne parlare sul Corriere, perché veramente mi ha colpito, perché stanno cercando di impostare qualcosa di diverso rispetto anche a delle realtà locali del passato che erano legate a una forma di mecenatismo troppo, come dire, troppo diretto e quindi troppo condizionate. Loro stanno cercando di sviluppare un qualcosa di più profondo, radicato nella società sarda e sassarese in particolare, con degli accordi con le istituzioni che non sono i classici accordi di, come dire, mi devi mantenere perché certo, io sono una realtà sociale, certo, ma una sorta di accordo commerciale in cui io ti do un prodotto e tu mi dai a fronte del prodotto che ti offro un contributo. E questa mi sembra una chiave intelligente per portare avanti. Lo è assolutamente, e il momento è quello giusto. Abbiamo svelato, anzi Gianmaria Macerca ha svelato i gusti culinari di Max Menetti, costi di Reggio, che ha riportato Reggio Emilia in Serie A dopo 5 anni di pane duro. Max? Salve a tutti, buongiorno. Salve. Un abbraccio mega galattico al grande Gianmaria. Mi è capitato domenica di raccontare in diretta il vostro ritorno, adesso una settimana di feste, però Reggio Emilia non penso voglia fare la meteora. No, dopo questa fatica. Innanzitutto, tra virgolette, purtroppo noi abbiamo ancora da rispettare i campionati, abbiamo una partita sabato, quindi le feste, parte domenica, diciamo nel nostro covo, le abbiamo messe in pausa e inizieranno veramente da lunedì praticamente. Beh, insomma, no, Reggio Emilia non è mai stata una meteora in ogni caso, insomma, perché per quanto riguarda la serietà che ha dimostrato nei 35 anni di pallacanestro professionistica che ha fatto, la meteora non è mai stata. Ha fatto sempre magari del su e giù tra la Lega 2 e la Serie A, ma sempre credo con grande serietà e dignità. Ricordo che è stato testimone oculare della promozione delle cantine riunite dalla B alla A2 contro la mia partita. A Udine. Esatto, bravissimo, sa, conosce perfettamente la storia del coach. La lascio a una domanda di Flavio Vanetti. La domanda è molto semplice, innanzitutto complimenti per il risultato. Che cosa deve fare adesso Reggio per consolidarsi in Serie A? Diciamo che c'è anche una tradizione abbastanza favorevole, insomma le neopromosse non è sempre vero che sono candidate a scendere immediatamente. Venezia quest'anno ripescata, tra l'altro ha dato una esemplare dimostrazione di questo. Ma di sicuro dovremo diciamo che la cosa migliore è la base economica e societaria che abbiamo, e questo è la cosa più importante, nel senso che è una società seria e solida, e credo che questo a lungo andare possa, soprattutto nel momento attuale, possa essere un vincente. A livello tecnico, diciamo che tutto lo staff era già praticamente confermato. Cercheremo di tenere l'integratura dello scorso anno il più possibile, perché abbiamo avuto un gruppo che, soprattutto a livello di quella che è stata l'empatia con tutto l'ambiente, è stato veramente una cosa importante. Dovremo fare sicuramente, in base ai nuovi regolamenti e degli inserimenti, per cercare di, e noi lo sappiamo bene, di portare a casa la salvezza, che sarà dura da portare a casa. Grazie coach, buon lavoro, complimenti. Grazie. Ancora grazie a coach Max. Grazie. Menetti. Flavio, volevo chiudere con te parlando invece di Giro d'Italia. Urca. No, da domani lo racconteremo in tutte le maniere, anche grazie all'aiuto di Ivan Basso, che sarà con noi ogni sera a raccontarci il suo Giro d'Italia. Questa edizione che parte dalla Danimarca, come la vedi? Ma fa parte un po' delle, come dire, iniziative di marketing di RCS, che ha provato appunto a portare, non è in assoluto un'idea secondo me sbagliata, si allarga un po' il mercato, certo è un po' strano effettivamente, forse non bisogna esagerare, andare così lontano, però insomma evidentemente avranno avuto le loro buone ragioni, ecco. Comunque aspettiamo appunto il giro, sperando che sia un giro combattuto. Diciamo che vabbè, io tifo un po' per il mio concittadino conterraneo Ivan Basso, anche se non lo vedo particolarmente in forma, nell'avvicinamento, diciamo che sfiga, no, gigantesca, non ha, sì, una marcia di avvicinamento, sì, infatti a questo giro. C'è anche Scarponi, che ho già detto. Io conto di vedere un italiano in rosa. Sarebbe auspicabile. Un po' banale sono, però la banalità in questi casi paga. Sì, si parte da Danimarca, le grandi corse ormai ci hanno abituato così, all'esplorazione dei nuovi mercati. Dei nuovi mercati, sì, infatti. Tuoi viaggi invece cosa prevedono? Viaggi prevedono, dovrei andare dai pallavolisti, nella speranza appunto di vederli qualificati per Londra. Andiamo a vederli nelle ultime partite di questo torneo di Sofia, che è il primo di questi pass d'emergenza dopo la mancata qualificazione alla World Cup. Ci sono questi tornei di recupero, di ripescaggio e un po' come gli esami di riparazione a scuola, ecco. Il torneo è molto difficile e delicato, però ci sarà, contiamo di farci. Poi ci sarà quel torneo eventualmente a Roma, dovesse andare male stavolta. Spero che tra un viaggio e l'altro tu possa tornare a trovarci. Volentieri, grazie a voi. Grazie a Flavio Vanetti, Franco Piantanini in redazione, Nicola Rinaldi in regia. Ci sentiamo domani alle 5 con lo sport. Ciao a tutti.